C'era una volta a mezzo lo mare, una barca e una rete che sanno parlare. C'era una volta a mezzo lo mare, una barca e una rete che sanno parlare. C'era una volta a mezzo lo mare, una barca e una rete che sanno parlare. C'era una volta a mezzo lo mare, una barca e una rete che sanno parlare. C'era una corda di seta intrezzata, c'era la vita e la corda tagliata, c'era lo sole, c'era lo tempo, c'era la donna e c'era l'inferno, c'era l'amore con le passioni, c'era la morte che ancora non chiome, c'era l'onore, c'era lo vento, c'era lo sangue, le corde e lo tempo, c'era l'onore, c'era lo vento, c'era lo sangue, le corde e lo tempo. C'era un padrone con te ci va a cara, quattro lagnose con la chiava, c'era una porta di ferro sbarrata, c'era la via, la canzone e la strada, c'era mio padre assettato vicino, c'era un cano con un padrino, c'era lo sindaco con la assessora, c'era monnezza con tanti dolore, c'era lo sindaco con la assessora, c'era monnezza con tanti dolore. C'era la fame in mezzo alla via, c'era la morte che all'occhio vedia, c'era di tutto e c'era lo vento, c'era di tutto e mancava del tempo. C'era una volta a mezzo l'umare, la barca e la rete che sanno parlare. C'era una volta a mezzo l'umare, la barca e la rete che sanno parlare. C'era un padrone con te ci va cara, quattro lagnose con già vagliava, c'era una porta di ferro sbarrata, c'era la via, la trazione e la strada, c'era mio padre assettato vicino, c'era un cano che non partiva, c'era lo sindaco con l'assessora, c'era monnezza con tante dolore, c'era lo sindaco con l'assessora, c'era monnezza con tante dolore, c'era la fame in mezzo alla via, c'era la morte calo che venia, c'era di tutto e c'era lo vento, c'era di tutto e mancava le terre, c'era una volta a mezzo lo mare, c'era una volta. C'era una volta.